conviene voi farle veramente non a Milano. Mi sono letto i vostri questionari ieri relativi alla, diciamo, ai suggerimenti su come migliorare la didattica. Sostanzialmente ci sono alcune cose più o meno ricorrenti. Tolgo di mezzo alcune cose rapide, alcune sciocchezze. Qualcuno mi dice, beh, però non bisognerebbe favorire in sede di esame chi interviene a lezione. Ora, io scherzando ho detto che chi interviene a lezione ha 3 voti in più all'esame. In realtà, e quella era una battuta, il problema qual è? Che obiettivamente chi interviene a lezione è avvantaggiato all'esame, esattamente come chi frequenta è avvantaggiato rispetto a chi non frequenta. Come vedete, io non prendo le firme di frequenza, però è ovvio che chi non frequenta cosa ha a disposizione? Solo il libro. Quindi non conosce il docente, non sa come ragiona, non sa come lavora, non sa come spiega, eccetera. Quindi parte svantaggiato. Alla stessa maniera, chi interviene a lezione ha una serie di vantaggi obiettivi, cioè non perché uno voglia favorirlo. Questo significa che lo studente per il docente non è uno sconosciuto. Io più o meno capisco che tipo è lo studente che sta intervenendo, anche se è una persona timida, mi rendo conto che uno timido, che ha difficoltà, quindi nell'esame devo tenere presente il fatto che probabilmente avrà una prestazione più bassa delle sue capacità perché è preso dall'ansia di prestazione tipica di ogni persona timida. Non solo, ma in 20 minuti, mezz'ora che dura un esame, e se tu già sai chi è lo studente, sai come impostare l'esame, sai come non metterlo a disagio, è un vantaggio, hai già un'idea del tipo di ragazzo che hai davanti. Se non sai nulla e per te è un emerito sconosciuto, diventa una specie di pesca miracolosa se azzecchi la domanda su cui lui ti risponde o no. Quindi da questo punto di vista non è che io voglia favorire chi interviene a lezione, ma obiettivamente l'intervento a lezione, come la frequenza, sdrammatizzano l'esame e rendono molto più facile ottenere un buon risultato. Quindi è semplicemente un suggerimento. Dopodiché il non frequentante o il non interventore a lezione lo stesso possono pigliare 30 lode. Non succederà che nessuno di voi avrà 30 lode, naturalmente, però magari succede che uno che è intervenuto a lezione lo boccia una volta di meno, ce la fa in 7 volte anziché in 8, no? È già un vantaggio. Prima cosa. Seconda cosa, altra raccomandazione che mi è venuta, c'è un po' meno di divagazioni. No, le divagazioni ci devono stare. E spiego perché. Hanno una funzione, hanno due funzioni diverse. Uno, tenete presente che la curva dell'attenzione non è una curva continua, ha un andamento ondulatorio. Per come siamo fatti proprio psicologicamente, la curva dell'attenzione, fare una lezione mitragliando una serie di concetti tutti fondamentali uno dietro l'altro senza dare un minimo di respiro è una cosa che produce molto più stress e ottiene meno risultati. La divagazione, il momento di alleggerimento, se volete la battuta, lo sfottò continuo che io ho col vostro collega Molinelli, per esempio, ha una funzione un po' distensiva, quindi aiuta in qualche modo a concentrare l'attenzione sui punti più rilevanti. In secondo luogo, la divagazione ha una funzione, se volete, didattica, cioè vi obbliga all'elasticità mentale, per cui dovete imparare a saltare da un argomento all'altro. Cioè, non è detto che per capire un teorema di matematica sia necessario parlare sempre solo di matematica. Qualche volta per associazione di idee servirà una sinfonia di Beethoven che improvvisamente vi rende chiaro quello che è un ragionamento verbale o di formule non vi rendeva chiaro. Allo stesso modo un quadro di Canaletto può esprimere meglio l'idea di che cos'è la scuola di massa e quindi per esempio il discorso della complessità che non un discorso astratto. Allora, avere questa capacità, questa flessibilità mentale nel saltare da una cosa all'altra, mi rendo conto che sconvolge il vostro modo abituale di studiare, ma è voluto. Voi dovete abituarvi ad avere questa elasticità mentale, questa agilità nel passare da una cosa all'altra. Vedrete che vi aiuterà molto. Vengo invece ai rilievi più sostanziali. Allora, primo, la richiesta di un testo unico di riferimento. Ci sono state due o tre lamentele del tipo vabbè, ma non si capisce che cosa dobbiamo portare all'esame. Allora, io su questo vi spiego un po' il mio punto di vista. Ogni docente ha il suo metodo di insegnamento. Io non sono interessato tanto a trasmettervi delle nozioni. Sono più interessato a trasmettervi un metodo, un modo di ragionare. Da questo punto di vista, il rapporto col libro rischia di essere passivizzante, per questo io do poca importanza al testo. Mi rendo conto che voi siete molto abituati all'idea del testo, che per voi rappresenta un po' un punto di riferimento, una specie di ancoraggio solido per il quale tu dici, in sede d'esame io ti dico quello che ho letto nel libro. Leggo il libro, mi ricordo il libro e ho fatto quello che devo fare. In realtà è un approccio sbagliato allo studio. Se volete potete fare l'esame tradizionale, non c'è nessun problema. Però il risultato finale è che voi vi dimenticherete tutto 10 minuti dopo l'esame. Sarete il classico sforzo dello studente di memorizzare il maggior numero di nozioni possibili lette sul libro, sfrutterete, ve l'ho già detto, la banda della memoria recente, che è quella che si impressiona più facilmente e si cancella più facilmente. 5 mesi dopo l'esame voi non vi ricorderete niente di quello che avete fatto. Se volete, per me non c'è problema, questo è l'approccio cartaceo all'università, per cui all'università si va per prendere il pezzo di carta. E il pezzo di carta si consegue attraverso una serie di pezzi di carta che sono lo statino, il verbale, il libretto, eccetera, eccetera, che a loro volta rimandano a un rapporto tutto cartaceo con il libro, eccetera. È tutto perfetto sulla carta, peccato che non corrisponda alla realtà. Se volete, per me non è un problema. Io credo che sia assolutamente inutile questo approccio. Cioè, se voi studiate per l'esame come fatto burocratico, è più che sufficiente. Se studiate per imparare qualcosa è totalmente sbagliato. Allora, ho pensato di fare una cosa per il vostro divertimento. Intanto ho prenotato l'aula per 3 mercoledì di seguito. Voi siete contenti, vero? Cioè mercoledì prossimo, poi mercoledì 9 perché il 2 è festa e mercoledì 16. Perché ho preso un mercoledì in più? Semplicissimo. Perché faremo una prova. Adesso il mio collaboratore Paolo non lo sa, ma lo apprende in questo momento, lui si presterà a un'esercitazione in cui farà la parte dell'esaminando. Cioè, tu non lo sapevi Paolo, adesso lo sai. Notate che sorride con te. Dunque la cosa funziona così. Voi potete scegliere 3 tipi di esame. Facciamo così, lascio a voi la scelta. Mi rendo conto dai questionari che la cosa vi terrorizza la scelta. L'idea di scegliere è una cosa che vi spaventa. C'è uno che mi ha scritto, no, il testo unico, cioè qual è il testo unico raccomandato dal professore? Mi raccomando. Vabbè, se volete io ve lo do un testo unico, non c'è problema. Allora, se volete fare l'esame tradizionale su un testo, voi venite e mi dite, professore, porto questo libro e facciamo l'esame solito. Se volete potete fare un'altra cosa, un esame di tipo un po' innovativo come lo faccio io e come lo farò a Paolo, per cui lo potete vedere e capire come un esame di tipo diverso, dove l'importante non sono le nozioni, l'importante è la capacità di ragionare e di smontare il giocattolo, la capacità di vedere una cartina, ragionarci su, di leggere una notizia di giornale, eccetera, di decostruire la notizia e capire cosa c'è dietro. Appunto, smontare il giocattolo. Naturalmente è l'esame più diverso da quello che voi avete fatto finora. Allora, chi se la sente lo fa, chi non se la sente no. Terzo, potete fare un tipo di esame intermedio, cioè la cosiddetta ricerca personale, che però non è quello che pensate voi, cioè non è porto la crisi del 29, vado su Wikipedia, vedo cosa c'è, la scheda sulla crisi del 29, che così me la cavo pure con poco, ripeto quello che c'è, non faccio manco il libro, faccio una voce di Wikipedia. La ricerca personale consiste in questo: tu mi devi portare una tesi, non una tesi scritta, una tesi è un'affermazione. Io sostengo che il conflitto di civiltà è mediabile oppure non è mediabile, oppure io sostengo che la crisi del 2008 si legge come una ripetizione della crisi del 29, oppure no, è diversa ed è diversa in questo. Cioè l'idea è quella di un esame nel quale voi portate una conclusione a cui siete giunti per un ragionamento, io faccio l'avvocato del diavolo e cerco di smontarvelo, e voi dovete spiegarmi attraverso quali nessi di ragionamento ci siete arrivati e difendere il vostro punto di vista. È chiaro? Le volte in cui mi diverto di più è quando faccio una cosa, faccio l'esame a coppia, e uno deve sostenere una tesi, uno deve sostenere il contrario, e il più bravo supera l'esame e l'altro no. È molto divertente, perché no? Non vi diverte questi? Vedo delle facce turbate. Vabbè, non ve lo faccio. Non ve lo faccio. Allora, a parte scherzi e battute, cosa voglio dire? Il tentativo è quello di darvi, di sdrammatizzare un po' l'esame e di mettervi a vostro agio. Ciascuno sceglie il tipo di esame in cui si sente più a proprio agio. Per cui, ad esempio, c'è chi sceglierà il terreno solido del manuale, sta là, vabbè, ok. Se quello, pur sempre attenzione, non vi aspettate la domanda del tipo, sì, ci sarà, ma non è decisiva la domanda del tipo, ma quando è che è caduto il muro di Berlino e come si chiamava il presidente che ha dichiarato la non convertibilità del dollaro? Può capitare questa domanda, però la cosa più importante resta sempre la capacità di ragionare sulle cose imparate. Per cui io vi farò una domanda che non ha la risposta nel libro, attenzione, sempre la risposta me la dovete trovare voi. Non voglio risposte a pappagallo di quello che c'è nel libro, e chi se ne frega, lo so, l'ho già letto il libro, quindi non c'è bisogno che me lo ripeti tu. Io voglio sapere se tu sei in grado, per esempio, di sciogliere una contraddizione, se sei in grado di accostare due notizie e ricavare una terza idea. Ecco, questo è importante. Però se vi dà più tranquillità l'esame, diciamo, tradizionale sul libro, potete farlo tranquillamente. Se volete fare la tesi personale, a condizione che sia nelle modalità che vi ho detto, per cui voi verrete con un'affermazione: professore, io voglio sostenere, come era esattamente nelle università medievali, dove le controversie avvenivano su tesi e antitesi. Io affermo essere libera l'interpretazione delle scritture. Queste sono le tesi di Martin Lutero, affisse, e quello era il modo di fare controversia. Oppure, in terzo luogo, l'esame, diciamo come lo faccio io, su materiali vari, dal giornale alla cartina geografica, alla statistica, alla tabella, eccetera, eccetera, sulla quale si imbastisce un discorso, un ragionamento. Scegliete voi, faremo una lezione in cui Paolo si presterà a fare il tipo di esame non tradizionale, perché quello tradizionale si immagina che lo sappiate, vero Paolo? Ma mi sembra che io non abbia molta scelta, perciò. Come mai scelta? Ma si è offerto volontario. L'avete visto quando si è offerto volontario? Mi ha offerto volontario. Per esempio, a me avrebbe molto divertito l'esame a contraddittorio artistico fra Mengo e Molinelli, sarebbe stato molto divertente, perché avrei staccato Mengo alzando la controversia, sarebbe stato molto divertente, peccato, non si può fare. Vabbè. No, no, che tu non scherzi. Quindi, vabbè, allora, altra cosa, il problema del manuale. Io non amo molto il manuale, un po' per quello che vi ho detto, un po' perché io non penso che il corso sia una ripetizione del manuale. Manuale, ve lo leggete, buonanotte, che bisogno c'è che il professore vi spieghi capitolo per capitolo quello che c'è nel libro. Non ha molto senso. Anche per una ragione, io personalmente credo che nell'insegnare il modo migliore per insegnare sia quello di studiare con i propri studenti, quindi anche per questo ci tengo molto al dialogo, ma anche per una ragione, perché vedete, non c'è niente di più inutile del docente che per 30 anni fa la stessa lezione, lo stesso corso con le stesse parole, a parte che inevitabilmente invecchierà, tutto questo diventerà noiosissimo, ma non è utile. La cosa utile è se tu aggiorni costantemente, il che significa una cosa, che se esce il numero di Limes sulla crisi dell'euro 10 giorni fa, io me lo leggo e me lo studio anche per introdurlo fra le cose che vi devo dire. Questo naturalmente un po' non va d'accordo col manuale, perché è ovvio che tu aggiorni in continuazione, rivedi i punti di vista, quindi in qualche modo questo crea qualche problemino. Però sto pensando una cosa, per quest'anno non si fa più in tempo e forse per l'anno prossimo l'idea di... Sono molto in dubbio se mettere il testo delle lezioni in rete o meno, perché ho paura di assecondare le pigrizie intellettuali, perché uno poi dice mi vado a vedere il testo della lezione, è finita là. Però forse può essere anche un sistema. Forse una via di mezzo potrebbe essere quella non di mettere il testo della lezione, ma lo schema di ciascuna lezione, proprio la scaletta, quello che io normalmente ho nel mio quadernetto. Ve lo metterei volentieri in rete in quanto tale, ma dubito che la mia grafia troverebbe molti lettori. E forse quello vi può aiutare, non lo so, questo ci ragioniamo un attimo e vediamo un attimino come fare. Uno dei motivi per cui i manuali a me non piacciono è che sulla globalizzazione, ve ne renderete conto, ci sono o testi che affrontano il problema solo dall'angolatura economica, o testi che lo affrontano solo dal punto di vista sociologico, o testi che ne fanno una critica politica però più militante che scientifica. Non è nessuna delle tre soluzioni è quella che mi piace, perché avrete notato che nel corso io cerco in qualche modo di intrecciare nozioni di ordine politico, economico, sociale, culturale e militare. Quindi non riesco a riconoscermi nessuno dei testi esistenti. Un rimedio potrebbe essere quello. Dice, ma perché non ho scritto un libro? Sì, lo posso scrivere, però c'è un problema. Io per una questione proprio etica sono contrario al fatto che il docente adotti i propri libri all'esame. Questa cosa che si adottano i propri libri è una cosa... Quando io ero studente, come voi, e avevo il mio bravo collettivo di facoltà, feci un casino indicibile contro i docenti che adottavano i propri libri. Perché questa cosa che il docente debba guadagnare sui ragazzi, sugli studenti, non mi è mai andata a genio. Se uno vuol leggersi un mio libro, va in libreria, lo prende, lo padronissimo, ma che io debba adottarlo in sede d'esame, no, questa cosa non mi piace. Questa è un'altra difficoltà. Stavo pensando semmai di scriverlo e di metterlo online in modo che se volete ve lo scaricate senza pagare. Non lo so, devo trovare una soluzione a questa serie di problemi. però non vorrei trovare la soluzione classica del libro adottato, che proprio non mi, poi io ho fatto storia agli altri, non mi sembra coerente che poi io faccia quello che rimproveravo agli altri, no, non è carino. Altra richiesta, quella delle slide. Molti dicono, ma perché non accompagni le slide? Per due ottimi motivi, uno di carattere generale e uno di carattere contingente. Quello di carattere generale è che, come prima, ho paura di assecondare le pigrizie intellettuali, per cui poi c'è la slide, il professore sta spiegando la slide. Cioè non è la slide un appoggio alla lezione, è la lezione un appoggio alla slide, e questo non va molto bene. Per cui un po' ci voglio pensare anche su questo. Il secondo motivo è che una serie di slide io le ho preparate, le ho fatte mettere da Paolo, eccetera. Solo che il problema è che io non so far funzionare questo marchingegno diabolico qua, per cui più delle volte o mi metto d'accordo con lui o voi non la vedete, perché io non so far funzionare questa. Sto cercando di imparare, ma con la tecnologia non ho un buon rapporto. Vedremo come migliorare anche questa storia. Va bene, sentite. Le risposte alle domande della volta scorsa ve le, in parte ve le rispondo qui, anche perché Molinelli e Mineo mi pare che non ci sono. Ah, Mineo c'è, giusto. Scusi, no, è che Molinelli ha l'esame di inglese. Poi c'è, vabbè, allora facciamo una cosa. Rispondo alla fine, va bene? Allora, oggi ci occuperemo. Prendete appunti sul fatto di mercoledì prossimo e ditelo ai vostri colleghi. Allora, oggi ci occuperemo del problema del... Sì. No, mercoledì prossimo alle 12:30 facciamo la lezione. Però non in quest'aula, è in aula 3. Mi raccomando, stavo dimenticando di dirvi aula 3. Dunque, sembra esserci un accordo unanime su una sorta di luogo comune o largamente condiviso, per il quale cioè, siamo ormai in presenza di un'obsolescenza dello Stato nazionale. Tanto per citarvi alcuni autori, Robert Cooper e Paul Kennedy, che sono entrambi inglesi ed entrambi hanno avuto esperienze di natura diplomatica e insegnano alle università, oppure Prem Shankaria, che è un personaggio, è uno studioso indiano che ha scritto un libro particolarmente importante, Il caos prossimo venturo. Ma lo stesso Huntington, da quello che vi dicevo l'ultima volta, danno quasi per scontato che lo Stato nazionale sia una sorta di sopravvivenza del passato, qualcosa di sopravvissuto a se stesso. Il mondo della globalizzazione va ineluttabilmente verso il superamento della sovranità nazionale. E questo per una serie di argomenti, alcuni di ordine funzionale. Cioè ormai i problemi dell'umanità trascendono le dimensioni delle frontiere nazionali. Lo Stato nazionale inadeguato, e il tema classico in questo è l'ambiente. Nessuno Stato è in condizioni più di salvaguardare l'equilibrio ambientale al suo stesso interno. L'effetto serra è un effetto che forse prodotto in Cina e in India, ma si riflette sull'intero continente. Ci sono valutazioni di carattere storico. Lo Stato nazionale aveva un senso, una funzione, una sua capacità, sino a quando non sono emersi soggetti eccedenti le sue frontiere, le multinazionali per esempio. Ormai l'economia si ha spostato il suo baricentro fuori degli ambiti nazionali e quindi lo Stato non è più in grado di regolamentare, c'è una sorta di logoramento, di consunzione della funzione dello Stato attraverso questo trasferimento di capacità decisionale in un ambito esterno al suo ambito di decisione. L'immigrazione, anche questo, l'immigrazione è tale per cui si provoca una confusione di identità nazionali, eccetera, per cui i cittadini di uno Stato spesso sono residenti in un altro, molto più di quanto non accadeva in periodi storici precedenti. Ancora, il formarsi di un'identità cosmopolita. Secondo una ricerca d'opinione, non so bene su quale sondaggio fondata, il 15% degli intervistati identificava la sua appartenenza prima di tutto come cittadino del mondo e solo secondariamente come cittadino di un determinato Stato o come appartenente a un determinato popolo. Quindi inizia ad esserci una coscienza diffusa, importante, di carattere cosmopolita. Personalmente non sono convintissimo della bontà di questi dati, perché vorrei tanto capire che tipo di intervista hanno fatto. Non so quanto hanno presente nel loro campione le popolazioni dell'Africa nera dell'interno, oppure per esempio le popolazioni dell'interno della Cina o dell'India. Non so quanto il campione sia opportunamente ponderato o quanto questo campione si riferisca alla popolazione metropolitana dei paesi industrialmente avanzati dell'Occidente. In ogni caso, ci sono poi valutazioni di carattere etico. Lo Stato nazionale sorto dall'ordine vestfalico, sorto dalla promessa di ridurre, se non impedire, le guerre, non solo ha mancato la sua parola, ma è stato vettore continuo di guerre. Quindi identifichiamo nello Stato nazionale il responsabile di uno dei principali mali dell'umanità. Questo voi lo ritroverete in critiche molto diverse. Ci sono varie forme di internazionalismo. C'è per esempio l'internazionalismo degli affari, di Wall Street. C'è l'internazionalismo cosiddetto proletario. L'internazionalismo di Wall Street dice che un mondo che commercia non ha voglia di fare la guerra, e quindi i commerci creano una reciproca convenienza nell'evitare la guerra. Imbrigliare il mondo in una rete di rapporti commerciali significa frenarne le tendenze aggressive. Viceversa, per l'internazionalismo proletario, un mondo retto dai lavoratori è un mondo non aggressivo, perché è lo Stato nazionale strumento dell'aggressività del capitale, la principale ragione dei conflitti. Una sorta di bandiera rossa dice: non più nemici, non più frontiere, solo ai confini rosse bandiere. Quindi l'idea, in realtà si tratta in questo caso di un'estensione del principio di fraternité della Rivoluzione francese, il principio della fraternità degli esseri umani, che in qualche modo dovrebbe essere il principale, che a sua volta è una proiezione dell'universalismo cristiano, dovrebbe in qualche modo essere il contravveleno rispetto alla tendenza alla guerra. Dunque, questa serie di ragioni, come vedete, esiste un internazionalismo liberista liberale, esiste un internazionalismo di tipo socialista, esiste un internazionalismo o un universalismo di tipo cristiano o più in generale religioso. Esistono varie correnti che mettono sotto accusa lo Stato come lo Stato nazionale come vettore di guerre, di conflittualità, di riduzione dello sviluppo e del progresso dell'umanità. Ad esempio, dell'internazionalismo liberale fa parte anche il pacifismo giuridico, liberale e democratico, fa parte il pacifismo giuridico che nasce con il progetto per la pace perpetua di Immanuel Kant e che trova un suo significativo punto di arrivo nelle teorie di diritto internazionale di Hans Kelsen verso gli anni 20. Quindi, come vedete, esiste una platea molto vasta di opinioni contrarie allo Stato nazionale. Dunque, l'estinzione dello Stato nazionale si propone come auspicabile e insieme ineluttabile. È auspicabile perché rimuove un inganno del passato, è ineluttabile perché ormai la sua difesa è antistorica. Lo Stato nazionale ha esaurito la sua funzione, lo Stato nazionale non è più in grado di assolvere neanche ai compiti che tradizionalmente gli sono assegnati, è destinato a declinare ed è antistorico ogni tentativo di ripristinare, di richiamare in essere la sovranità nazionale. Eppure, a un rapido colpo d'occhio si capisce che qualcosa non quadra. Ad esempio, mai come nell'epoca presente c'è stata una corsa dei popoli ad assicurarsi una rappresentanza statuale. Il crollo dell'Unione Sovietica, la disintegrazione della Jugoslavia, la secessione della Cecoslovacchia, le pulsioni secessioniste del Belgio, per non dire della Spagna, dell'Inghilterra, dell'Italia, il fenomeno Bossi, il fenomeno Lega va inserito in questo contesto, vanno tutte nel senso o della creazione di nuovi stati nazionali o della richiesta che essi si formino. Quindi in primo luogo è paradossale come proprio nell'epoca in cui lo Stato nazionale appare come una soglia storicamente superata, c'è invece una pulsione e siamo arrivati alla totalità di 194 stati nazionali, dei quali 192 rappresentati nell'ONU. In secondo luogo, nell'ONU, 192 nell'ONU, 194 in totale. Per qualcuno non è riconosciuto, non aderisce, piccole cose, non so. Quindi c'è chi dice, ma certo, ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione, ma non è detto che l'autodeterminazione debba esprimersi necessariamente nella rivendicazione di uno Stato. Sarebbe antistorico. Andatelo a spiegare ai palestinesi. Vedete che vi dicono. Andate a spiegarlo ai baschi. Andate a spiegarlo ai curdi, agli armeni, soprattutto in quelle situazioni in cui esiste una forte repressione nazionale, una forte repressione delle minoranze nazionali ed etniche. Non solo, ma mai come in questo momento si sono radicate alcune potenze come potenze nazionali. Si parla di deperimento dello Stato nazionale come se si trattasse di un fenomeno omogeneo, ugualmente distribuito. In realtà, se ci fate caso, questo riguarda in particolare i paesi dell'Unione Europea, un po' per la costruzione di un'entità sovranazionale dei confini non esattamente identificabili come l'Unione Europea, una sorta di costruzione giuridica di nuovo tipo, se avremo tempo ne parleremo, che in qualche modo sottrae spazi di sovranità ai suoi stati membri, un po' perché l'Europa in quanto tale rinuncia abbastanza apertamente ad avere un ruolo di potenza, di protagonista della scena mondiale, e quindi in quanto tale destina le sue aspettative più in direzione di una messa in comune della sovranità, ma è una scelta politica, non è una tendenza oggettiva. Quando Berlusconi propose l'ingresso fra le tante cose che propone quando gli gira, propose l'ingresso della Russia all'Unione Europea. Prodi, all'epoca commissario europeo, rispose un po' inorridito: ma in questa maniera l'Europa diventerebbe una grande potenza anche militare, cosa che naturalmente, per carità, dovesse succedere, è bene che gli Stati Uniti restino unica grande potenza militare. È ovvio quindi che questo atteggiamento rispetto alla funzione dello Stato nazionale, tipico degli europei, in parte riguarda altri paesi. Beh, sicuramente i nuovi paesi, le repubbliche centroasiatiche nate dalla secessione dall'URSS, sicuramente hanno una funzione delle competenze piuttosto limitate oggettivamente dalla loro situazione. Ma è la stessa cosa, si può dire la stessa cosa di deperimento dello Stato nazionale parlando soprattutto di Cina e Stati Uniti? Io non credo che si possa dire la stessa cosa. La verità è che il deperimento dello Stato nazionale, che per certi versi c'è, sicuramente il problema ambientale eccede le competenze di qualsiasi Stato, siano essi pure gli Stati Uniti o la Cina. Però questo processo non è omogeneo e soprattutto è diversificato da paese a paese e da materia a materia. In termini di sovranità militare è tutt'altro che omogeneo il processo, e basta vedere le spese per gli armamenti in Cina e Stati Uniti e capirlo. Dal punto di vista della sovranità alimentare è tutt'altro che omogeneo, anzi spesso è lo Stato in quanto tale che acquista terreni fuori del proprio territorio per garantire l'autosufficienza alimentare del proprio popolo, ovviamente compromettendo quella degli altri, ma questo. Bene, quindi come vedete il processo è un processo contraddittorio, ci sono tendenze al deperimento dello Stato nazionale, ci sono tendenze invece al rinnovamento di una funzione dello Stato nazionale, e queste tendenze si presentano in modo disomogeneo nei vari scenari. Per cui ci sono paesi che aspirano all'indipendenza, popoli che aspirano all'indipendenza, stati che subiscono secessioni, viceversa stati che cercano di mettere in comune la sovranità, come nel caso europeo. Il processo è un processo non coerente. Quello che viene presentato come un processo coerente e rettilineo, ineluttabile, è in realtà un processo estremamente contraddittorio e accidentato, altamente asimmetrico. Per comprendere meglio le cose, proviamo ancora una volta a smontare il giocattolo e a isolare i pezzi del ragionamento. Stato nazionale. Allora, prima di tutto, separiamo la nozione di Stato dalla nozione di nazione. Vediamo cosa c'è dentro. Lo Stato, abbiamo detto, è una costruzione giuridica, culturale, che presuppone un soggetto, il popolo, presuppone un'entità materiale, il territorio, un ambito spaziale, presuppone un elemento formale, la sovranità. Ora, ma la nazione cos'è? La nazione rinvia necessariamente alla nozione di popolo. Cos'è un popolo? C'è un autore che peraltro conosco personalmente, persona di grande cultura ma di notevole ingenuità. Si chiama Luigi Ferraioli, è un docente di filosofia del diritto, autore di importanti volumi, il quale a un certo punto dice: ma in fondo, sentite, siccome non esiste una definizione sufficientemente esaustiva e definitiva del concetto di popolo, perché non troverete mai un massimo comune denominatore nel quale far stare tutti gli esempi storici di popolo. Ogni massimo comune denominatore che voi identificherete avrà le sue eccezioni. Lo Stato presuppone, la nazione presuppone la comunanza di lingua? Non necessariamente. Ci sono paesi come la Svizzera che hanno un'identità nazionale ma sono plurilingue. Viceversa, ci sono lingue che danno luogo a popoli diversi. Penso per esempio all'inglese, penso anche al tedesco che è parlato da due stati sovrani, Germania e Austria, e quando si è tentato di fonderli col discorso dell'Anschluss la cosa ha provocato qualche problema. Quindi questa identità, pur essendo spesso ricorrente, non è una identità fissa, non è non è qualcosa che non ha eccezioni. Comunità di storia, ma la storia ha sempre, c'è sempre un momento dal quale inizia, non è una cosa che c'è dall'origine dell'uomo, c'è sempre una prima volta. Comunità di religione, neanche per sogno. Molti popoli sono composti da, hanno varie confessioni religiose al loro interno, e così via. Allora, molti hanno sottolineato il carattere soggettivo. Un popolo, il processo di nation building, nasce dall'autoproclamazione di una nazione come tale. Gellner, per esempio, teorizza questo. E in gran parte è vero. Però attenzione, questo spalanca la porta a una considerazione diversa. Per esempio, vi dicevo del mio amico Luigi Ferraioli, che teorizza che popolo è qualsiasi gruppo di persone si dichiari tale. Bene, io credo che basti un po' di buonsenso per capire che questa posizione non sta in piedi neanche un po'. Gli interisti sono un popolo. I romanisti, va bene? Così non, I fans di Madonna sono un popolo. Gli ammalati di tifo sono un popolo. Potremmo fare 100.000 esempi di cose che accomunano gruppi sociali, che però non per questo sono un popolo. E allora cos'è un popolo? Proviamo a ribaltare il ragionamento. Non esiste una definizione di popolo e quindi di nazione, perché popolo è un concetto storicamente dinamico, non statico. E popolo comprende, e popolo è un'espressione, popolo e nazione. Nazione è una specificazione, ma popolo comprende una sostanziale ambiguità, ha due concetti dentro. Il popolo può essere soggetto, come è nel caso degli ordinamenti democratici, ma può essere anche oggetto. In uno Stato, in una monarchia assoluta, il popolo non è fatto da cittadini, da sudditi, però esiste in quanto oggetto dell'esercizio della sovranità. Deve rispettare, non ha diritti, ne ha, diciamo, di fatto, cioè ovvio che c'è un diritto alla sopravvivenza senza del quale poi non ci sarebbe la comunità da tiranneggiare anche. Però non è portatore in sé di diritti, ma è oggetto di doveri. Attenzione, perché questa cosa è importante. Viceversa, l'idea di nazione già implica una soggettività. Nella storia abbiamo avuto varie idee di popolo: il popolo dei sudditi, il popolo oggetto delle società, per esempio, non democratiche, delle società schiavistiche, per esempio. Abbiamo avuto il popolo di Dio, nell'accezione religiosa, popolo di Dio e la Chiesa. E attenzione, le prime sperimentazioni democratiche avvengono proprio all'interno della Chiesa, attraverso l'elezione dei vescovi, a cominciare dal vescovo di Roma. Solo successivamente ci si darà un ordinamento diverso. In tutta la Bibbia esiste quest'idea del popolo ebraico, del popoletto, come soggetto di storia. Ed è tale proprio perché in rapporto alla divinità. È Dio il vero condottiero del popolo di Israele. Sì, c'è Mosè, ma l'apertura del Mar Rosso al colpo della verga di Mosè si produce per un miracolo divino. E quindi il popolo è per sua natura entità voluta da Dio. Questo lo troverete in molti miti di vari popoli. Il popolo è stato anche il popolo nazione classicamente, anzi il popolo per eccellenza nella storia è il popolo nazione quando è soggetto. Il marxismo ha proposto un'altra idea di popolo, il popolo classe, riunito intorno alla sua identità in rapporto ai mezzi di produzione. Come vedete esistono varie sfaccettature che si sono determinate storicamente. Noi possiamo dire una cosa, diciamo così, applichiamo un po' il nostro metodo che è quello della complessità. Un popolo esiste come soggetto sinché si realizza un equilibrio dinamico fra due elementi, gli interessi e l'identità storico-culturale. Un popolo prima di tutto deve percepirsi come tale e quindi ha bisogno di una comunità culturale, ed è evidente che la lingua è il primo elemento in questo senso, non l'unico, ma certamente il primo. Non c'è cultura se non c'è una lingua, se non c'è comunicazione. E se è vero che esistono aggregazioni nazionali sovralinguistiche o plurilinguistiche, è anche vero che queste sono tendenzialmente eccezioni e spesso danno luogo a identità piuttosto precarie, non sono la regola. Nella maggior parte dei casi è la lingua il veicolo principale e strutturale dell'identità di un popolo, al punto che addirittura la lingua può sostituire, può creare una patria immaginaria anche senza territorio. Pensate al caso degli ebrei, che nella diaspora hanno mantenuto, è un caso assolutamente unico dal punto di vista della storia umana, forse gli unici che somigliano sono gli armeni, ma da epoca estremamente più recente, un popolo che è riuscito a mantenere la sua identità pur nella dispersione geografica intorno a due elementi, la sua identità religiosa e la sua identità linguistica. L'ebraico antico continua ininterrottamente per 2000 anni a essere parlato, a essere usato nelle funzioni religiose. La Torah continua a essere letta nel ebraico antico e quando Israele si costituirà come Stato, sintomaticamente riprenderà l'ebraico come propria lingua, aggiornandolo, rivedendolo. Ecco l'esempio di una lingua, in questo caso di una lingua e religione, che mantengono addirittura per 2000 anni un'identità quasi sospesa nel vuoto, senza un territorio. È chiaro che ci sono anche degli interessi che hanno favorito questo. E beh, da un lato gli ebrei, proprio in quanto discriminati dalla società cristiana, costituiscono un gruppo omogeneo, devono essere un gruppo omogeneo, tra l'altro ci pensano i cristiani a dargli un'identità mettendoli nei ghetti. Dall'altro lato gli ebrei realizzano la propria forza e la propria sopravvivenza intorno ai traffici commerciali e all'iniziale finanza, che rappresenta il principale punto di forza della comunità. Quindi in qualche modo, come vedete, è un insieme di identità culturali e di interessi. Fino a quando si crea un magnete dalla convergenza fra interessi e identità culturale, esiste un popolo-nazione. La disgregazione inizia quando entrano in conflitto questi elementi, quando gli interessi divaricano e cominciano a cercare identità culturali differenziate. Quello che in parte è successo per esempio in Jugoslavia è quello che rischiamo che succeda in questo paese. Allora, il problema dell'identificazione del popolo, come vedete, non può essere risolto semplicisticamente come autoproclamazione, per cui in qualsiasi gruppo si dice popolo ed è popolo perché si dice popolo. Se il problema fosse così facile, com'è che non ci abbiamo pensato sinora? La soluzione era così immediata. In realtà il processo di nation building È un processo nel quale occorre stabilire chi è il soggetto portatore di diritti e di poteri. Il condominio di Piazzale Accursio 14 non può decidere di costituirsi in popolo e chiedere la secessione per non pagare le tasse. Vi sembra? È scarsamente plausibile un'operazione del genere. Certo, poi ci sono casi strani di piccoli paesi che sono enclave fiscali sostanzialmente. San Marino, Liechtenstein, Monaco, eccetera, eccetera, che vivono in funzione della loro extraterritorialità fiscale, a dire le cose come stanno. Ma normalmente l'identificazione di popolo è un concetto pesante, non può essere riferito a qualsiasi comunità umana, a prescindere per esempio dal numero, dalla significatività. E se è vero che nel processo di nation building c'è un atto volontario, cioè guardate che è ovvio che nel processo di proclamazione di un popolo c'è anche un progetto, quasi sempre, per cui a un certo punto un popolo si proclama tale anche perché c'è un'operazione culturale più o meno mitografica. Però questo non significa che ci si possa inventare identità dal nulla. L'operazione della Lega di inventare una nazionalità padana con i riti del dio Po, l'ampolla e la chincaglieria varia di questi cerimoniali resta un'operazione grottesca che ha scarsi effetti. Il punto di forza è semmai nel discorso della piccola patria, del trattenere la ricchezza lì dove si produce, quindi una comunità di interessi, ma dal punto di vista dell'immaginario e dell'autoidentificazione di un popolo, e da questo punto di vista obiettivamente l'operazione mostra la corda e semmai assume le vesti negative della dichiarazione di fallimento dell'identità culturale italiana, e le polemiche sul 150esimo sono questo. È per ora un tentativo in negativo, e questo perché ci si possono inventare le cose più diverse. Per esempio nel Risorgimento l'ala patriottica, Mazzini per dire uno, presentava gli italiani come una comunità di sangue. Gli italiani sono parenti fra loro, sarebbero alla lontana gli discendenti di un unico ceppo, diremmo, familiare. Cosa totalmente inventata che non sta in piedi da nessuna parte. Però funzionava, se andate a vedere la versione dei Fratelli, non a caso Fratelli d'Italia era Fratelli d'Italia. Se andate a leggere le strofe di Fratelli d'Italia vedrete come ricorre questo tema della comune appartenenza a un unico ceppo di sangue. Va bene, cosa totalmente inventata, ha funzionato. Però attenzione, non tutto è reinventato. L'identità culturale italiana, l'Italia non è stata sempre uno Stato, e con qualche difficoltà si può parlare di un popolo italiano, soprattutto nell'arco di tempo che va dalla fine del Sacro Romano Impero in poi. E però attenzione, la cultura italiana c'è stata sempre, la lingua italiana è sempre stata una lingua viva, almeno da quando si è formata intorno al 1100-1200, ha prodotto una letteratura di altissimo livello e continua, molto più di altri paesi. La letteratura italiana ha avuto vette universalmente riconosciute come tali abbastanza continuamente in tutta la sua storia, anche se ha avuto periodi maggiori, periodi minori. La cultura italiana, le universitas, la vera identità italiana, un po' come l'identità degli ebrei è stata custodita dalle sinagoghe, l'identità italiana è stata custodita nelle universitas. Questo paese è il paese che insieme alla Francia conta le università più antiche del mondo. L'Alma Mater Studiorum di Bologna conta più di 900 anni. L'università di Padova, quella di Pavia, quella di Urbino, sono università plurisecolari, all'interno delle quali si sono formati importanti scienziati anche di scienze matematiche, fisiche e naturali. Non è un caso che il progetto del Risorgimento dove nasce? Nasce nei 7 congressi degli scienziati italiani. Quindi c'è una forte identità culturale, scientifica. Per capire l'Italia, molto più che gli scritti di Mazzini, che hanno la loro importanza, o di Cattaneo, citatissimo, non si è letto mai nessuno però, eh? Cioè io ho notato che tutti quelli che citano Cattaneo non sanno dove sta di casa, però tendenzialmente molto più che Mazzini, Cattaneo o lo stesso Cavour, è molto importante leggere autori molto meno conosciuti ma più rilevanti, come i riformatori e i giacobini italiani, Carlo Antonio Pilati, Ludovico Radicati di Passerano, tutti nomi che probabilmente a voi suonano nuovi, ma vi assicuro di straordinaria importanza. Per esempio Carlo Antonio Pilati, letto oggi nelle facoltà di scienze politiche, sulla scienza dell'organizzazione del lavoro per esempio, avrebbe ancora moltissimo da dire, ha un pensiero modernissimo. Il rapporto fra libertà e struttura è affrontato con una modernità di pensiero straordinaria. Quindi, come vedete, c'è una forte soggettività culturale, intellettuale di questo paese, artistica. C'è poi una relativa comunità di storia, punteggiata da vari momenti di ripresa dell'identità nazionale, e intorno a questo si costruisce un progetto di identità che scopre una comunità storica, in parte mitografica. Certo, sono tutte operazioni queste che si fanno, intendiamoci, però le operazioni si possono fare. Vedete, queste operazioni funzionano un po' come il nostro castello, a proposito di divagazioni. Avete mai visto il castello sforzesco? Voi sapete che è una vera patacca, perché in realtà i pezzi di castello autentici sono soltanto pochi ruderi che si scorgono soprattutto avendo l'ingresso del castello davanti, la torre del Filarete davanti, sul lato sinistro, sul fianco sinistro si vedono dei ruderi che sono autentici, tutto il resto è stato ricostruito nell'Ottocento, a cominciare dalla torre del Filarete, che è stata rifatta esattamente come dalle stampe d'epoca, eccetera, ma che è una vera patacca, non c'entra assolutamente niente con quello. Perché per molto tempo, per secoli, i milanesi hanno utilizzato il castello come cava di mattoni per costruirsi la casa. Quindi voi potete capire, un po' per volta l'hanno smontato. Ora, oggi voi avete questa cosa che sì, è un falso, diciamo le cose come stanno. Però è un falso vero, nel senso che in parte incapsula e incamera elementi materiali, residui materiali esistenti, no? In parte è ricostruito su una traccia, su una pianta, cioè che è quella originaria, quindi sì, è una ricostruzione, però in fondo rispetta il progetto iniziale. Come vedete, le operazioni di identità, di continuità storica, sono qualcosa del genere. Ci si può inventare, si può ricostruire qualcosa, non si può inventare proprio tutto. Qualche residuo del passato vero occorre che ci sia, e soprattutto un minimo di confini, di limiti, di disegno che abbia una sua plausibilità, occorre che ci sia. Di qui si capisce qual è il difficile rapporto continuo fra naturalità e decidibilità del processo. Ci sono delle cose che obiettivamente non ti puoi inventare, ce ne sono altre che puoi modificare, introdurre, innovare. Questo è importante, sapete perché? Perché non esiste popolo se non si definiscono le soglie di inclusione e di esclusione. Ogni popolo ha bisogno di dire chi sta dentro e chi sta fuori. Non si dà casa se non c'è la porta, se non ci sono le pareti. Per cui voi capite che ogni popolo poi a un certo punto decide chi deve riconoscere come parte, perché nessun popolo è totalmente omogeneo e totalmente diverso dagli altri. Un popolo, noi siamo abituati a pensare molto in termini di fisica solida. Noi pensiamo agli oggetti, per esempio delle scienze sociali, come a qualcosa di simile alla materia, allo stato solido, per cui esiste il principio di non compenetrazione, per esempio, no? E allora ogni oggetto ha dei suoi confini precisi, no? Una sua unitarietà che lo distingue dagli altri. In realtà i popoli non funzionano proprio così, funzionano piuttosto con, in generale, tutti gli aggregati sociali, ma soprattutto i macro aggregati, come le idee di popolo, di nazione, di modello di civiltà, funzionano un po' più secondo le leggi della termodinamica. Per cui sì, a un certo punto una nube ha una sua consistenza, ma è piuttosto sfrangiata alla periferia. Lo stato gasoso per sua natura non è uno stato stabile, è uno stato evolutivo che ha confini non sempre ben definiti. Non esiste qualcosa di perfetto, se parliamo di popoli, non esiste un popolo perfettamente omogeneo e non esiste un popolo nettamente demarcato dagli altri. Ecco perché deve politicamente decidere i suoi confini, cosa sta dentro e cosa sta fuori. Ogni popolo è portatore, certo ha una sua identità culturale comune, ma come diceva impeccabilmente Pranio in un'altra occasione, i popoli cambiano, le identità culturali cambiano e comprendono cose diverse. Ogni popolo è anche la sommatoria di culture diverse, di indirizzi culturali, di culture locali, di tradizioni, di identità religiose diverse. A un certo punto però deve decidere cosa sta dentro e cosa sta fuori. Certo che questo poi può portare anche a conflitti estremamente acuti. Poteva il popolo ariano della Germania decidere una soglia di esclusione degli ebrei tedeschi dalla propria comunità nazionale? Vedete che io sostengo di no, però badate, non è la semplice persistenza sul territorio che automaticamente dà diritto all'identificazione. Si mettono in moto necessariamente una serie di meccanismi. Ad esempio, la difficoltà che noi abbiamo a coesistere con i Rom. Certo, è auspicabile affrontare questo problema con una notevole dose di spirito di tolleranza e di fraternità umana, però non c'è dubbio che un popolo assolutamente sedentario come il nostro fatica un po' a rafforzarsi a un popolo tendenzialmente nomade o seminomade. Ci sono tutta una serie di diversità culturali per cui si creano dei punti di attrito e di frizione. In molti casi sarà possibile risolverli in chiave di tolleranza, in altri casi daranno luogo a conflitto. Nel caso dei Rom, data anche la dimensione della comunità, è possibile risolverla, dato anche poi il reale motivo di frizione che può esserci, che è molto relativo, si può risolvere la questione in termini di tolleranza. In altri casi probabilmente la cosa crea, pensate per esempio alla frizione fortissima che c'è fra ebrei e palestinesi per via dell'arrivo dei coloni. È ovvio che i palestinesi vedono l'arrivo dei coloni israeliani come il fumo negli occhi, perché vedono in quelli chi gli sta togliendo il territorio, il terreno, proprio la terra, l'acqua, la sopravvivenza. E lì il conflitto non è mediale, lì non è vabbè quello che al massimo fa qualche furtarello d'appartamento sul via o cose del genere, no, lì è quello che ti sta togliendo l'acqua. E voi capite che non tutti i conflitti sono mediabili. E quindi la dialettica inclusione e esclusione è una delle dialettiche politiche fondamentali del processo di formazione di identità nazionale e quindi di popolo. E questo spiega anche il perché c'è una fondamentale asimmetria anche qui a livello mondiale sull'identità, perché vedete, nazione è un'idea a cui ci siamo molto attaccati, però la vediamo molto in termini europei. In Africa, soprattutto in Centro Africa, la cosa non funziona tanto così. L'identità principale resta l'identità etnica o tribale, e talvolta dà luogo a conflitti assolutamente atroci come quello del Ruanda. Il tentativo di ridurre a unità etnie diverse costruendo stati nazionali, spesso del tutto improbabili, con confini disegnati tirando la linea con la riga, non ha dato risultati entusiasmanti in molti casi. Pensiamo al caso della Nigeria, al conflitto con gli Igbo, pensiamo per esempio al caso, anche se volete più strutturato, perché lì almeno il popolo ha un'identità maggiore, dell'Etiopia e dell'Eritrea, e dove di mezzo per esempio c'era l'identità dei Tigrai, che erano un po' a cavallo. Pensiamo ai conflitti di confine fra Somalia e Eritrea, perché c'era da capire i Galla dell'Ogaden dove andavano classificati. Cioè, come vedete, in Africa, e badate che l'Etiopia è uno degli stati più antichi dell'Africa nera, forse è il primo stato più o meno modernamente strutturato. Se voi pensate al fatto che già nell'Ottocento si dà una moneta, curiosamente la moneta sono i talleri di Maria Teresa che vengono utilizzati come moneta corrente in Etiopia. Ecco, tenete presente, si dà un sistema postale, e questo vi dice già. Ebbene, anche uno Stato che ha una sua strutturazione, diciamo, molto maggiore di tanti altri, è andato incontro a secessioni, problemi di identità nazionale molto forti. Quindi lì abbiamo dei sottomultipli, per così dire, no? Della identità nazionale, l'etnia, la tribù. Viceversa, da altre parti abbiamo identità che tendono a essere sovranazionali. Pensate per esempio al caso della Cina, dove la nazionalità Han in qualche modo predomina sulle altre, soprattutto su quella mancese, ma poi ci sono anche gli uiguri, eccetera, eccetera, no? Paese straordinariamente complesso la Cina. Infatti si dice, e la cosa non è infondata, che l'assenza, o perlomeno tale viene dichiarata, ma c'è ragione di credere che abbia un fondamento di verità, di progetti espansionistici della Cina sia in gran parte determinata già dalla forte complessità interna di un paese del genere, che avrebbe difficoltà a inglobare ulteriori differenziazioni. Quindi, come vedete, in particolare si pone un problema: la diversità di rapporto fra nazione e Stato. Noi in Europa, badate, ogni Stato contribuisce a formare, a rafforzare, a dare confini all'identità nazionale, e ogni identità nazionale in qualche modo è elemento fondativo dello Stato. Le due cose si condizionano a vicenda, però in Europa noi siamo abituati a un rapporto nel quale tendenzialmente il prius è la nazione e lo Stato è la conseguenza, anche se poi lo Stato rafforza la comunità nazionale, però diciamo di solito c'è prima la formazione di un popolo, nazione, e poi il suo Stato. In Cina le cose non vanno così. In Cina piuttosto c'è la tradizione di un grande gruppo dirigente, la società mandarina, intorno all'imperatore, che attraverso il controllo, badate bene, in Cina è fondamentale questo, il controllo tradizionale non era della terra, era dei corsi d'acqua. Attraverso il controllo, infatti, Witt Vogel parlerà di dispotismo orientale o di società idrauliche. attraverso il controllo dei corsi, date le caratteristiche del territorio cinese, controllare il territorio avrebbe richiesto una forza militare immensa. E infatti, qual è la soluzione per stabilire un confine? La grande muraglia, che permette di isolare. Per il resto diventava difficile controllare il territorio, è molto più semplice usare la forza militare per controllare i corsi d'acqua, che per loro natura hanno un'estensione spaziale molto più ridotta, sia pure allungata, però molto più ridotta. Questo ha dato luogo a società più autoritarie, più autocratiche, e tendenzialmente ad una debole società civile ed a una forte unità di comando. In Cina è lo Stato che determina l'identità nazionale, molto di più di quanto non sia il contrario. Non è la l'etnia Han in quanto tale a creare lo Stato cinese, è già il nucleo, il nocciolo duro dell'impero, della società imperiale, quello che in qualche modo poi permetterà agli Han di estendersi e di inglobare l'attuale territorio della Cina. E quindi vedete come noi ci troviamo di fronte a dinamiche completamente diverse, sia per origini sia per destinazione. Negli Stati Uniti avete l'esempio più puro di nation building come atto politico. Abbiamo un gruppo di coloni europei che si emancipa dalla madre patria, essenzialmente in riferimento a un discorso di interessi, la reazione alla tassazione, no? Però lì era impossibile darsi un'identità storica. Dove si inventava un'identità storica, una continuità storica di che, separata dagli inglesi? Lì viene tutto costruito intorno a un progetto politico che è espresso dalla Costituzione. E infatti il patriottismo americano, a differenza degli altri, è un patriottismo costituzionale. L'identità, gli Stati Uniti si vantano di essere un popolo di popoli, una pluralità di popoli. Il motto dello stemma americano dice ex pluribus unum. Quindi l'idea è proprio l'operazione politica di cavare un'unità. Attenzione, questo ha anche una dimensione molto aggressiva, perché l'idea è stata quella poi di sterminare tutti i nativi che erano quelli non inclusi in questa costruzione ideale, senza troppi problemi. C'è una dimensione imperiale anche lì, attenzione, anche se non si chiama tale, ma l'idea di un destino che ha il destino manifesto, teorizzato nel 1842 da uno dei primi pensatori dell'imperialismo americano, è quello dell'eccezionalismo americano, che si sostanzia nella missione degli Stati Uniti di affermare la libertà nel mondo. All'estremo opposto, se volete, abbiamo la Cina, e in posizione intermedia abbiamo Europa, India e Russia, dove confluiscono aspetti diversi, storie diverse. In termini di attuali dinamiche abbiamo una simmetria anche adesso. Paradossalmente però la simmetria vede non ai poli opposti Cina e Stati Uniti, che anzi sono il polo della persistenza della grande potenza nazionale. Al polo opposto troviamo l'Europa. Ecco, vedete come cambia continuamente questa serie di asimmetrie tipiche della globalità, che creano il problema del come governare la globalità. E qui si pone il problema della sovranità, se requisito essenziale o meno. Ma per capire la sovranità dobbiamo capire anche una cosa: il popolo non è una sommatoria casuale di individui, non sono i passeggeri di una vettura di tram. Il popolo è articolato all'interno per interessi differenziati, per comunità culturali diverse, e ha una serie di corpi intermedi, in assenza dei quali non si può parlare di organicità di un popolo. Questo pone un problema molto serio che vedremo a questo punto nella prossima lezione, relativamente al progetto cosmopolita. Vabbè, io mi fermerei qui per un attimo perché già sono le 12:05 per discutere un po', anche perché sono le domande di ieri, e riprenderei questo tema mercoledì. Vi vedo un po' affaticati oggi. È il caldo? Ah. Vabbè, allora, forza, gioventù. Parte prima lei con la risposta. No. Fatemi pigliare un po' di fiato. Allora, Doronzo. Quindi recente le mie discussioni su internet sono circondato da gente che mi parla di vari studiosi e libri che in sostanza affermano l'idea che il sud Italia sarebbe stato colonizzato e non unificato in Italia. Gente che si lamenta della ricchezza del regno dei Borbone, che è stato depredato dagli abiti savoiardi, visitati e quello che così. Adesso io ci ho visto molto, da una parte ho visto un certo, come dire, io non lo so, un leghismo al contrario, non lo so. Da un altro lato invece mi sembrano discorsi seri. Io sono rimasto veramente molto confuso. Questo è un revisionismo così sensato, scientifico, o è sempre parte dell'idea del progetto politico, dell'idea di una successione? È una sorta di leghismo politico, o è una cosa vera che non è per forza collegata a un progetto politico? Dimmi, Pulini. Lei ci ha presentato il concetto di popolo, cioè le sue parole, equilibrio dinamico tra due elementi, no? Quindi secondo me ce lo interpreto come un concetto simmetrico in sé. Secondo me adesso, fino a un po' di tempo fa era adeguato come concetto, adesso non lo è più perché è diventato sempre più un concetto asimmetrico, nel senso che, cioè adesso ammetto che sono concetti un po' che non ho bene chiari anch'io, però adesso il concetto di popolo, anche la parola stessa, è completamente abusata, forse più della parola libertà. E cioè, a me viene in mente, non so, il popolo viola, il popolo delle libertà, le agende rosse, il popolo delle carriole. Ogni volta sentiamo dire popolo da qualche parte. E la simmetria sta in questo, nel senso che secondo me, piuttosto che l'equilibrio tra interessi e un'identità storico-culturale, si va a privilegiare l'interesse, nel senso che piuttosto che rappresentare il concetto di popolo un'identità culturale, rappresenta più l'interesse specifico e più che l'identità collettiva è un'identità particolare basata sull'interesse. Cioè, a me sembra che come il concetto di popolo adesso non sia più adeguato a come magari poteva essere un tempo, penso al 1800 o forse anche un poco prima, e sostanzialmente andrebbe cambiato, perché cioè preferirei magari un concetto di nazione, cioè piuttosto di italiani, ma non popolo italiano, non so se Capito. Non è proprio una domanda, ma un po' sul popolo, sull'amico. Perché si vede la Danimarca nella Scandinavia, quando Danimarca e Svezia hanno invece subito tre paesi diversi, come è stato proprio un progetto politico di cambiare la lingua così, che perché prima erano... Scusami, non riesco né a vederla né a sentirla. È che le lingue nell'inizio somigliavano, era un paese grande e poi dopo che sono separati la svedese è cambiato molto, hanno preso un dialetto specifico che era più diverso dal danese, ha fatto quello la lingua. giuridico della faccenda. Posto che appunto un popolo deve avere un territorio per essere nazione, e che la Lega Nord vuole appunto fare una scissione dallo Stato italiano per creare questo nuovo Stato, a quel punto ci si rende conto subito, analizzando il progetto, che è puramente una questione di interessi e non ha nessuna valenza fondativa altrimenti, perché all'interno di questa zona che viene chiamata comunemente Padania ci sono in realtà molti più elementi diversi che forse in altre zone d'Italia che risultano più omogenei, perché penso che il nord Italia, con l'immigrazione che ha subito anche a livello lavorativo, sia una delle zone più miste che ci siano in Italia. Vabbè, comincio a rispondere, perché così poi facciamo un'altra tranche. Allora, cominciamo dalle domande di questo giro. Il Sud Italia è colonizzato. Allora, non c'è dubbio che il processo di unità nazionale sia stato fatto come processo di minoranza. Uno dei punti deboli dell'identità di questo paese è proprio nell'assenza di una rivoluzione moderna come atto fondativo. L'Italia non ha conosciuto rivoluzioni, ha conosciuto due cose simili: il risorgimento e la resistenza, la guerra civile, fascismo-antifascismo, culminata nella resistenza, ma non ha mai conosciuto una rivoluzione sociale, per esempio. Una rivoluzione nazionale come quella del risorgimento, una rivoluzione politica come quella della resistenza, ma una rivoluzione sociale vera e propria no. Che è il motivo per cui, ad esempio, persistono una serie di elementi premoderni in questo paese. Quindi non c'è dubbio che la formazione di questo Stato sia stata dovuta in gran parte a un atto di minoranza. Sono minoranze che hanno voluto, minoranze intellettuali che hanno trovato alleanza con uno Stato locale, come il Piemonte, il Regno di Sardegna, il cui esercito è stato il braccio armato e la cui diplomazia, in accordo con i francesi, è stato il braccio armato che ha. Beh, c'è stata anche una parte di partecipazione popolare, c'è stato il volontariato che è stato importante, ma nel complesso tutto questo ha determinato la nascita di uno Stato che ha storicamente una serie di dislivelli, una serie di asimmetrie, una serie di disequilibri. Non è un caso che noi continuiamo ad essere un paese che ha un fondamentale dualismo economico fra nord e sud. A questo proposito però bisogna dire che il dualismo economico non è prodotto, come un po' cialtronescamente si è cominciato a dire già dagli anni 70, dalla colonizzazione del sud. Qui dobbiamo un po' capirci. Effettivamente il regno del sud ha avuto una sua stagione d'oro, se vogliamo, e Napoli ad esempio è stata la più grande metropoli europea nel 600 con 1 milione di abitanti. Solo Londra e Parigi erano a livello. Non solo, ma ha avuto un periodo anche estremamente felice di integrazione fra popolo e intellettuali. La canzone napoletana in gran parte è una manifestazione, una certa letteratura napoletana. A proposito di riformatori e giacobini, grandissimi intellettuali importanti per la storia del nostro paese, per dire da Cuoco a Filangieri, da Pagano a Leonora Fonseca Pimentel, ma anche altri ancora, sono stati esponenti della cultura napoletana del tempo. Però la cultura napoletana, Napoli ha subito una battuta d'arresto dopo la repressione della rivoluzione napoletana del 99. Da quel momento i Borboni diventano una delle monarchie più arretrate e reazionarie d'Europa, cosa che non erano stati nel 700, quando invece avevano delle aperture di tipo riformista. ma Napoli si dice è stata la prima a darsi una ferrovia, la Napoli Portici. Sì, peccato però che portava dalla residenza del re a Napoli, dalla corte alla residenza estiva del re a Portici. No, non era esattamente una misura di sviluppo economico del regno. Napoli, la Sicilia, è stata la prima a darsi un sistema postale. Sì, però in una regione nella quale in assoluto il numero di persone che sapeva leggere e scrivere era decisamente inferiore a quello di alcune regioni settentrionali. Quindi attenzione, c'è molta mitologia. Da cosa nasce? Nasce in buona parte da una degenerazione del discorso gramsciano. Chi tenta un discorso critico sul Risorgimento, spiegando il perché rispetto a Croce, che ritiene il fascismo una parentesi della storia nazionale, un trascurabile incidente, Gramsci dice no, un momento, il fascismo affonda le sue radici nella storia nazionale e nei suoi quaderni avvia una riconsiderazione della storia nazionale del Cinquecento in poi. In particolare sul Risorgimento Gramsci svolge una critica che è quella dell'assenza della riforma agraria, del coinvolgimento del mondo contadino, eccetera, eccetera, che crea la debolezza dello Stato nazionale italiano, della democrazia liberale da cui verrà fuori poi il fascismo. E insiste giustamente sui caratteri fortemente repressivi che ha l'azione dello Stato unitario nella sua immediatezza di fronte all'insurrezione, all'insorgenza borbonica rappresentata dal brigantaggio. Brigantaggio che in parte è determinato dal fatto che i piemontesi impongono la coscrizione obbligatoria che prima non c'era e un regime di tassazione decisamente superiore del passato. E questo provoca anche una reazione popolare, non c'è dubbio. Questo, per esempio, negli anni 60 provocò tutta una serie, una letteratura molto ricca, per esempio la storia del brigantaggio di De Jaco, per dirne una, per arrivare a un film molto importante come Bronte, Cronaca di un massacro, che se non avete visto vi consiglio, in cui appunto veniva fuori questo. Questo poi a sua volta è stato rovesciato in una sorta di nostalgia di un Eden mai esistito, che sarebbe stata il ricco regno borbonico delle due Sicilie, conquistato e sfruttato dai piemontesi. Non diciamo sciocchezze. È vero che ci sono questi pezzi di discorso. So, mi dispiace il fatto che ho visto autore di uno sciagurato libello del genere, che sta avendo molta fortuna, è in testa alle classifiche, che esprime appunto uno spirito di leghismo del sud, e Pino Aprile, che è un giornalista barese che conosco benissimo e che era una persona che io stimavo e che vedo scrivere una quantità di sciocchezze notevoli, vantando un'inesistente società del loro, perché in qualche età del loro che sarebbe stata terminata sciaguratamente dalla spedizione garibaldina. Non diciamo sciocchezze, l'unità nazionale, che ha avuto 10.000 limiti e problemi, è stata comunque un fatto assolutamente positivo nella storia di questo paese. Senza l'unità nazionale questo non sarebbe diventato una delle maggiori potenze industriali del mondo, probabilmente sarebbe un paese un po' tutti, i pezzetti, gli staterelli, o anche un mitico regno del nord, come qualcuno dice, senza le regioni centro-meridionali, sarebbe qualcosa di più del Portogallo, ma non tanto di più. Se questo paese ha conosciuto uno sviluppo scientifico industriale, nel complesso lo deve allo Stato unitario. E se la cultura italiana ha avuto un periodo di grande vitalità nel Novecento, lo deve essenzialmente a questo. Quindi questo fa parte di un'operazione politica che cerca di darsi dignità con una paccottiglia culturale da due soldi, per cui al mito del Dio Po eccetera corrispondono le sciocchezze delle nostalgie borboniche, del revisionismo borbonico. Però attenzione, perché questo è un bruttissimo sintomo. Così è iniziata la guerra civile jugoslava. La guerra civile jugoslava, sapete su cosa è iniziata? Su uno scontro storico fra i serbi, che dicevano agli altri è giusto che i serbi abbiano la leadership della federazione, perché voi, perché noi serbi siamo stati gli unici ad opporci efficacemente, proclamando il primo regno indipendente, quello di Serbia, all'invasione musulmana ottomana. Voi altri eravate invece o serbi degli ottomani o servi degli austriaci, croati e sloveni in particolare. Quindi noi siamo lo spirito dell'indipendenza nazionale. A questo gli altri reagivano alla stessa maniera, e attraverso la rilettura storica della storia nazionale, come vedete, di un passato ancora più remoto del nostro, costituì la corazzatura ideologica immaginaria del conflitto di interessi che sarebbe poi esploso sulla questione della divisione del debito delle repubbliche, e che ha avuto come esito i massacri della guerra, prima con la Croazia, poi con la Bosnia, poi col Kosovo e per fortuna non ancora con la Macedonia. Noi stiamo ponendo allegramente le premesse per la stessa cosa, perché ci siamo dimenticati una cosa, che arriveremo al nodo del come ci dobbiamo dividere i debiti dello Stato. Quando arriveremo, per adesso ci stiamo dividendo il federalismo fiscale, le risorse. Quando arriveremo a decidere come dobbiamo spartirci il debito, lì le cose cominceranno a essere un po' diverse, ma lasciamo perdere. Dunque, sì, popolo in effetti è un'espressione decisamente consumata, però difficile sostituirla. L'adozione della parola nazione, soprattutto in un paese come questa, ha un suo... Io sono uno che difende l'idea di nazione, eh? Infatti, attenzione, io sono un internazionalista ma non un cosmopolita, c'è una differenza. L'internazionalismo presuppone una solidarietà trasversale a identità nazionali che rimangono, cioè vede le identità nazionali non necessariamente in conflitto fra di loro, potenzialmente in collaborazione, in convergenza fra di loro, ma pur sempre esistenti. Il cosmopolitismo tende a rimuoverle, a svalutarle. Io sono un internazionalista e quindi in quanto tale difendo l'idea di nazione, però attenzione, perché in questo paese usare la parola nazione e nazionale, diciamo che evoca dei ricordi non del tutto positivi. Questo paese suona di destra il concetto di nazione, che fa pensare immediatamente all'esperienza fascista. E questo è un problema. Dire gli italiani, e capirei se non è inflazionata questa cosa, sì, forse no, può darsi che torni, abbia una sua funzionalità. Di sicuro c'è un problema. Questo, però attenzione Purini, questo è un problema italiano, non è un problema generale. In Italia è vero che il conflitto di interessi sta prendendo la mano rispetto all'identità, ma per un motivo elementare. Vedete, creare un'identità frazionaria rispetto all'identità italiana, per cui tu crei un'identità culturale padana, per dire, lombarda, non è facile, per due ottimi motivi. Primo, perché l'Italia ha una identità culturale fortissima, e quindi riuscire a creare un'identità frazionaria da culturale da contrapporre a quella nazionale diventa complicato, perché hai di fronte un parametro particolarmente pesante. In secondo luogo, perché non è un caso che Mengo dica: ma io mi sento prima di tutto cosmopolita e poi cittadina italiana, mi sento affatto lombarda, anche se parlo spesso in lombardo, ma non trovo un particolare vincolo di solidarietà con un lombardo rispetto a un friulano o un siciliano, anche perché appunto questo è il posto d'Italia dove i flussi migrativi sono incrociati più. Sì, attenzione, poi tutto fatto il discorso dei cittadini del mondo ne parliamo mercoledì. E però è anche vero una cosa, questo è un paese che da sempre ha un'identità nazionale insidiata da un lato dai particolarismi locali, per cui è vero che l'identità culturale centrale è forte, però è vero che il dualismo economico, eccetera, tende a spingere al frazionamento localistico. Dall'altro, questo è il paese sede della Chiesa Cattolica, che è portatrice di un universalismo. È un paese dove il marxismo, il socialismo marxista e anarchico hanno avuto un grande successo, portatori di identità internazionaliste. Quindi da sempre noi siamo stati molto aperti rispetto a... Gli italiani sono fra i popoli più esterofili del mondo. C'è una tradizione, per esempio, francofila in Piemonte, ad esempio. C'è una tradizione francofila e anglofila in Sicilia. C'è una tradizione ispanofila a Napoli. C'è una tradizione germanofila nel Triveneto. Quindi abbiamo da sempre queste propensioni, sia a livello locale sia come gruppi culturali. Ad esempio, gli ingegneri in questo paese tendono piuttosto ad avere una posizione anglofila e germanofila piuttosto che francofila. Gli intellettuali umanisti, al contrario, sono francofili. Quindi c'è questa apertura che indebolisce e non stabilizza il senso di identità nazionale, lo insidia. Però attenzione, perché pur sempre resta un nodo forte. Ecco perché in Italia il localismo tende a mettere radici dal punto di vista degli interessi, il cosmopolitismo tende a mettere radici dal punto di vista culturale delle identità. Però questo non è quello che succede nel mondo. Attenzione, noi qui stiamo facendo un corso di globalizzazione, dobbiamo tenere presente le tendenze globali. Il caso scandinavo. Il caso scandinavo è in effetti un caso da manuale. Beh, per la verità bisogna dire una cosa, va bene che lei è danese, però obiettivamente vogliamo dirlo che Svezia e Norvegia erano sostanzialmente colonie della Danimarca, esattamente con la Groenlandia, cioè, e che quindi in realtà è stato un processo di emancipazione nazionale. Uno dei casi in cui appunto una lingua parlata localmente, un dialetto, come dice lei, notare come lo spirito nazionalista, era un dialetto quello svedese, la lingua era la nostra, cioè, ha detto questo a proposito del fatto che le identità nazionali sarebbero deperite, notare l'orgoglio con cui rivendica il titolo di lingua al danese. Ma in effetti molto spesso accade esattamente questo, è quello che sta tentando disperatamente Bossi, con la differenza che se uno non c'ha un dialetto a disposizione, ma ce n'ha almeno 5.000, perché fra il friulano, il ligure, il valdostano e il veneto c'è la stessa differenza che fra il friulano e il siciliano fondamentalmente, lui tenta disperatamente di fare che cosa? Di promuovere al rango di lingua il dialetto, con risultati solamente catastrofici, perché oltretutto guardate che se un insegnante di Sondrio va a insegnare il dialetto a Pavia lo paleano, cioè finisce male la storia. Quindi, ma l'operazione è quella, è l'operazione per cui un gruppo, guardate, è sempre così, il centro politico tende a emanare, come ci insegna Prodel, la lingua, il diritto e la finanza. La seconda fascia del sistema di potere è quella che fa manifattura, la terza fascia è quella che fa agricoltura. Questo è un dato stabile, sempre. Quindi ogni qualvolta la periferia o la semiperiferia tende a diventare centro autonomo, lo farà quasi sempre respingendo la lingua dell'altro e dandosi una sua. E il suo caso lo conferma perfettamente. Poi i vecchi colonizzatori come gli inglesi continuano a parlare degli Stati Uniti come delle nostre ex colonie. Ultima cosa, una volta la BBC dette questa notizia: nebbia sul canale della Manica, il continente è isolato. Va bene, a mercoledì gioventù, datevi da fare. Adesso hai saputo qual era la cosa che avevi riservo per me. No, vabbè, la confrontiamo prima, ovviamente. Non male. studiare un manuale da 1000 pagine. No, faccio un lavoro proprio un aggiornamento sulle slide.